Buonasera e benvenuti per l'ultima volta in questa stagione, settima stagione, a Mighty FM, che vi parla come sempre Claudio Mighty Mau dagli studi di Radio Kairos presso il TPO di via Casarini 17/5 a Bologna. Siamo qui come ultima appendice della stagione dopo una latitanza più o meno di un mese per questioni personali ma anche molto molto molto musicali. Abbiamo partecipato al Primavera Sound Festival, di cui abbiamo parlato copiosamente nei mesi, nelle ultime settimane, ma siamo qui per chiudere in bellezza per una puntata dedicata a una rassegna che si chiama Sexto Unplugged. Molti di voi già la conosceranno, noi la conosciamo molto bene e non potevamo non dedicare un ultimo speciale per salutarci e per ascoltare per l'ultima volta la nostra bellissima sigla in versione techno Tunes Tunes Maraglia, come si dice qui a Bologna. Ogni anno, chi ci segue lo sa, cerchiamo delle versioni alternative curiose dell'inno alla gioia, che segnerebbe insomma sarebbe un po' anche l'inno dell'Unione Europea, che qualcuno ultimamente sta un po' schifando, ma noi invece ci sentiamo assolutamente europee e lo dichiariamo ogni volta con l'inno alla gioia di Beethoven. Siamo qui per parlare di Sexto Unplugged e per l'occasione, come l'anno scorso, abbiamo cercato Daniele Terzariol, uno degli organizzatori di questa rassegna, e abbiamo fatto una intervista che abbiamo separato in due parti, in cui chiacchierando così amabilmente Daniele ci illustra il festival, ci illustra le date e i cantanti, i musicisti, le band e il tipo di musica che fanno. Vai Daniele! Allora, siamo al telefono con Daniele Terzariol, organizzatore di Sexto Unplugged, la rassegna estiva che si svolge generalmente nel mese di luglio, ma quest'anno c'è un'eccezione, c'è una piccola appendice nel mese di agosto a Sesto a Reghena, in provincia di Pordenone. Pronto? Daniele, ci sei? Eccoci qua, eccoci in linea, buongiorno. Allora, come già sto dicendo in trasmissione, come sanno comunque i nostri ascoltatori, chi ci segue, Sesto è un paese, un ridente paese della provincia di Pordenone, che da 11 anni, quest'anno è l'undicesima edizione, perché l'anno scorso si è celebrata giustamente la decima, giusto? Se la matematica non è un'opinione. Dice benissimo. Ecco. È giunta l'undicesima edizione, che si è sempre contraddistinta per uno sguardo particolare sul panorama di musica, diciamo, alternativa indipendente, però con un occhio molto alla sinfonia, comunque un certo tipo di musica di un certo livello che possa anche essere integrata anche da degli interventi anche lì durante il festival da parte del Sesto Ensemble, che è il gruppo di il coro di musicisti che l'anno scorso aveva accompagnato Anna Calvi nella sua esibizione, per esempio. Abbiamo sicuramente un cartellone ricco, ricco, ricco, e il nostro festival è certamente in crescimento, e speriamo che questo sia stato anche notato dal pubblico, che mano a mano ampliandosi anche nelle altre regioni d'Italia. Ci arrivano anche richieste, guarda, dall'America. Addirittura? No, perché l'anno scorso parlavamo della posizione strategica del paese, appunto al confine, vicino all'Austria, vicino alla Slovenia, e invece adesso avete proprio attraversato l'oceano. Sì, siamo strategicamente vicini in America, vuol dire mica tanto, perché l'aneddoto è che dei ragazzi ci hanno scritto vogliono venire ad ascoltare uno dei concerti in cartellone, solo che ci fanno, ma Sesto a Reghena è distante da Milano, ma ad ogni modo noi ci teniamo molto ad esserci, quindi abbiamo dovuto spiegare un po' tutta la logistica. Vuol dire che il nostro nome è arrivato sino lì in fondo, e questo è di sicuro una testimonianza e un sintomo positivo del fatto che il festival è, per l'appunto, come dicevo prima, in accrescimento. Allora, parlaci un po' del programma. Via un po' con il programma per quest'anno di Sesto Unplugged. Noi iniziamo a brevissimo, perché il 5 luglio siamo già in piazza con una coppiata, ci sono i Lost Brothers in apertura di Glen Hassard, che è un ottimo cantautore irlandese che vi consigliamo caldamente. Tra l'altro, anni fa ha anche vinto l'Oscar come migliore canzone. Esatto, si è portato a casa anche un Oscar per Once. Vedo che Claudia sei documentatissima, e quindi sì, no, non posso neanche interrogarti, perché no, mi sa che quell'anno ho proprio guardato la cerimonia, l'ho visto proprio in diretta. Per cui da dall'Irlanda poi ci trasferiamo in terre un po' più fredde, perché direttamente da Bergen, che sta in Norvegia, sì, ci sta un duo, il 16 di luglio scendono in Italia a portare un po' di fresco. Quanto li abbiamo amati quando sono venuti fuori, veramente. I Kings of Convenience. Diciamo un duo che negli anni, insomma, i primi anni sono stati molto attivi, poi hanno avuto un po' un momento di pausa di uno dei due, perché poi invece l'altro, diciamo, il rosso occhialuto, ha continuato anche a fare musica da solo. Tra l'altro, non so se lo sai, una canzoncina in italiano, tipo girata in Sicilia. Sì. Diciamo che ho apprezzato di più il progetto, quello elettronico, il Whitest Boy Alive. Sì, ecco, sì, sì, sì, quello ce lo ricordiamo. Sì, non la canzone sulla ragazza che si è laureata. Cos'è? Esatto. Ah, perché lui, a quanto pare, io ci avevo parlato anche un po' di anni fa a Ferrara, infatti per me è un po' un sogno che si avvera, no? Mi sarebbe sembrato impossibile il fatto di portare Kings of Convenience in piazza Sesto Regena, dato che li ho sempre apprezzati un sacco come semplice spettatore. E ci parlava di una passione sfrenata per il meridione, quindi ha trovato casa, mi pare, dalle parti di Siracusa, in Sicilia, e quindi sta assorbendo un po' il nostro mondo vacanziere ed estivo. Anyway, Kings of Convenience porteranno in tour il loro primo album, perché sono 15 anni di successi. Bellissimo. Con intervallato da quelle che sono le hit più conosciute, cito la più radiofonica, così la gente si ricorda Miss Red, ecco, tanto per buttarne lì una. Quello che avete sentito era l'intervista a uno degli organizzatori di questa rassegna di cui parliamo oggi in trasmissione, ovvero Sexto Unplugged, l'associazione culturale Sexto, l'associazione Pro Sesto, nella persona di Daniele Terzariol, hanno iniziato ad illustrarci questo programma di concerti che avrà inizio il 5 luglio con Glenn Hansard, che già ieri si è esibito a Ferrara per Ferrara sotto le stelle, accompagnato da un duo irlandese che si chiamano The Lost Brothers. E quindi adesso illustreremo, non con le parole, basta con le parole, ma con la musica. E quindi dall'ultimo album di Glenn Hansard ci ascoltiamo un mashup casalingo di tre pezzi, ovvero Winning Streak, Her Mercy e Lowly Deserter, seguito dalla canzone che abbiamo brevemente menzionato, ovvero vincitrice come miglior canzone dell'Oscar 2007 per il film Once, Falling Slowly. Pezzi Glenn Hansard sono tratti da Diddley Ramble del 2015. Glenn Hansard, che ha una carriera musicale molto lunga, ha iniziato a suonare giovanissimo, 13 anni, come busker, come musicista di strada a Dublino, e ha interpretato anche un musicista, un membro della band dei Commitments, nel famoso film del 91 di Alan Parker, quando aveva già fondato la sua prima band, ovvero i Frames, nel 90. Well, there's sugar on the old spoon. Let's do that two-step around your front room. And when you're ready, Nel 2006 Glenn Hansard poi forma un'altra band, ovvero The Sweat Season, con la cantante e polistrumentista ceca Markéta Iglová, la violinista e anche suonatrice di viola Maria Tukanen dalla Finlandia e Bertrand Galen, francese, al violoncello. E in questa veste fanno la colonna sonora del film Once, sempre del 2006, i protagonisti sono proprio Glenn Hansard e Markéta, che interpreta lui, appunto un musicista di strada, e lei, anche lei è una musicista, che però per ceca, quindi immigrata in Irlanda, che per sopravvivere fa la venditrice ambulante di fiori. E la canzone che il loro duetto Falling Slowly fu appunto premiata con l'Oscar per la miglior canzone originale. Ma stiamo ancora ascoltando Her Mercy, tratto da Didn't Ramble del 2015, che adesso lascerà il passo a Lowly Deserter. She will unbind you, set the word free. Mercy, mercy. Ovviamente la vittoria di questo Oscar, mi ricordo, io e Olivia abbiamo guardato insieme la cerimonia, mi pare, sì, della vittoria, della consegna dell'Oscar. Ha lanciato a livello internazionale Glenn Hansard, che ha cominciato anche la sua carriera solista e ha anche contribuito anche ad altre colonne sonore, come I'm Not There, per esempio, il film su Bob Dylan, vagamente su Bob Dylan. E nel 2012 ha fatto un primo album solista, Rhythm and Repose, seguito da questo Didn't Ramble, ed è arrivato il momento di un piccolo assaggio di Falling Slowly. More than they're meant, we'll play them soon. ed era appunto l'accenno di Falling Slowly, il duetto tra Glenn e Marchetta, e ovviamente hanno avuto anche una relazione, una storia d'amore, adesso sono ancora collaboratori ed ottimi amici. Come dicevamo, insieme quella stessa sera si esibiranno, perché appunto sono in tour con lui, altri compatrioti irlandesi, ovvero The Lost Brothers, un duo composto da Mark McCausland e Oisin Leach, in attività dal 2008, hanno fatto 4 album, l'ultimo dei quali nel 2014, che si chiama New Songs of Dawn and Dust, da cui adesso ascoltiamo sempre un paio di pezzi. Uno si chiama Derry Day e un altro Between the Crow and the Rat. Past the ancient sands of time, where the shadows wait in line for dare a day. Have you heard her laugh? Have you seen her cry? Yes, I've seen these things at least a thousand times. A spell that no man can undo. She will do the same to you. Dare a day. So listen now and hear these words. Don't live your life in constant hurt. The days will pass. Mi ha preso un po' un colpo quando ho sentito questo passaggio, perché direi che le note sono assolutamente identiche ad un musicista inglese, ma un'origine irlandese, perché un cognome assolutamente irlandese, ovvero Elvis Costello, ed era Days, tratta dalla colonna sonora di Until the End of the World, famoso film di Wim Wenders. Se ve la ricordate, è veramente uguale. She will bring you tears. They'll be falling down for a thousand years on the rainy streets so gray, and everything will fade away except listen now and hear these words. Don't live your life in constant hurt. The days will pass and you'll remain a prisoner of dare a day. Questo invece è Between the Crow and the Rat, tratto sempre da New Songs of Dawn and Dust, The Lost Brothers in tour in Europa, adesso con Glenn Hansard, che appunto sarà primo concerto questo del 5 luglio, martedì, a Sexto Unplugged. Per dare un po' un'idea geografica, provincia di Pordenone, ma al confine col Veneto, diciamo, tracciate una linea più o meno retta a nord di Porto Gruaro e troverete Sesto a Regana, bellissimissimo paese, e Piazza Castello, dove si svolgono i concerti, è veramente un luogo speciale. Ma appunto la seconda data che ci ha illustrato Daniele è stata quella dei Kings of Convenience, che a 15 anni dal loro debutto ufficiale col primo album Quiet is the New Loud, che creò anche un piccolo movimento musicale, il New Acoustic Movement, di cui facevano parte anche i nostri amati, perlomeno all'inizio, Touring Breaks, ci saranno i Kings of Convenience appunto, che riprodurranno, rieseguiranno quest'album, e ha detto Daniele anche intervallato da altri grandi successi, e noi abbiamo fatto questo piccolo mashup con i pezzi che più abbiamo amato, ma diciamo tutto, anche nella sua versione remixata elettronica, ovvero Versus. Questa era Toxic Girl. E she's intoxicated by herself. Every day she's seen with someone else. And every night she kisses someone new. Never you. You called me after midnight. Must have been 3 years since we last spoke. I slowly tried to bring back the image of your face from the memory so old. I tried so hard to follow, but I didn't catch a half of what had gone wrong. Said I don't know what I can save. I don't know what I can save you from. Altro successo di questo album, Quiet is the New Loud, per una band che è stata parca di album, perché solo nel 2004 hanno fatto un secondo album, Riot on an Empty Street, ma ancora di più, solo nel 2009 poi hanno fatto Declaration of Dependence, perché appunto Erlen Doe nel frattempo si è dedicato ad altri progetti, anche il suo progetto come The Whitest Boy Alive, mentre l'altro membro, ovvero Eric, si è dedicato a altri progetti musicali, ma anche a diventare papà. E quest'altro è un altro dei pezzi che abbiamo amato veramente tantissimo, ovvero Failure. E l'ultimo pezzo da Quiet is the New Loud che abbiamo deciso di mashuppare è Parallel Lines, un disco che conteneva molte, molte tracce, molto denso, molto bello, prodotto da Erlend Oey e Erik Klambeck-Bøy. Diciamo che devo perfezionare forse la pronuncia del norvegese. One perceives as hunger and the other as food. I awake in tangled covers to a sash of snow. You dream in a cartoon. Kings of Convenience, che lo ripetiamo, forse l'abbiamo detto nell'intervista radiofonica ma non l'abbiamo detto ora, suoneranno sabato 16 luglio, quindi un comodo sabato per raggiungere Sesto a Reghena, bellissimo paesino con un sacco di palazzi antichi, suggestivi, soprattutto attorno a Piazza Castello, dove c'è il complesso abbaziale, che fa anche da camerino per i musicisti, il campanile che svetta dietro al palco, dove c'è la roggia, il fiume, il Reghena, che attraversa il paese e su cui si deve passare sopra per entrare a Piazza Castello. E sicuramente tutti, anche musicisti stranieri, magari, che arrivano anche da ambienti, diciamo, a livello panoramico e architettonico molto diverso, penso appunto agli americani per esempio, penso che tutti comunque rimangano affascinati da Sesto Reghena, particolarmente forse Patrick Wolf. Si passa il 21 siamo luglio, a metà cartellone, data più mainstream, ma di sicuro un ottimo concerto con i The Lumineers, per noi una data in piedi, perché questa volta sarà una data in piedi, la capacità della piazza è di circa 2000 persone. Tra l'altro sottolineo, per chi so convenience, Lumines, nel caso chi voglia è meglio che si accaparri i biglietti in tempo piuttosto breve, soprattutto per quest'ultima data di Lumines. Sì, perché l'abbiamo detto tante volte, il Sesto Reghena si svolge, diciamo, in un palcoscenico naturale che è contenuto nella piazza, che è tutta contenuta da palazzi storici, a cui si accede con un arco attraverso un ponte sulla roggia, il fiume, i canali che attraversano il paese, e quindi insomma la capienza quella è. Di certo ci saranno le nostre famose sedie che fanno bandà con il resto della piazza per la data del 22 luglio. La data è di due autori un po' misconosciuti. Allora, il primo è Josh T. Pearson, lui viene dall'America e fa un ottimo folk, tra l'altro veramente apprezzabilissimo. Il secondo, a me è piaciuto molto, sono felice che siamo riusciti a portarcelo a casa, è Ray X. Lui è un surfista australiano del 1988, per cui giovanissimo, ha fatto un bellissimo CD e lui sostanzialmente propone un genere molto vicino a quello che è di Bon Iver, ecco, mettiamolo così, ma anche con qualche innesto elettronico un po' più spinto. Davvero davvero un profilo interessante, vi consiglio di fare un salto a questa data che come nome è quello che spicca meno, però vi assicuro che sarà davvero un bello spettacolo. Che poi magari la gente non lo sa, ma in realtà lo conosce già, perché lui ha anche collaborato a The Howling, che è un pezzo, esatto, che ha avuto molto successo anche in versione remix più o meno danzerecci. Infatti paradossalmente forse conosciuto da un pubblico molto più giovane che bazzica anche in qualche club. Poi andiamo in chiusura di cartellone, si parlava di una propagine del nostro festival da luglio verso agosto, infatti l'ultima data è il 9 agosto. E qui va il mio cuore, perché ti devo dire la verità, io ero sicura che se Daughter fosse venuta in Italia quest'estate sarebbe andata a Sesto Unplugged, ero sicurissima. Ah, certo, lo sapevi, e già, ma infatti ti ho scritto subito quando è uscita fuori la notizia. Sì, siamo molto molto contenti di questo, abbiamo cercato i Daughter molto intensamente e siamo riusciti a chiudere la data con loro. E poi è stato anche annunciato un supporto, apertura, bello grosso. Sì, che sta avendo sempre più successo in Italia, infatti stanno venendo anche abbastanza spesso in questi ultimi 2-3 anni e sono i Broadcasting, giusto, che si basano sui public service announcements della TV inglese. Sono due tipacci che fanno un'ottima sperimentazione, molte musiche strumentali con degli inframezzi di comunicazione estratti dalla NASA durante le missioni spaziali internazionali. Concerti, oltre a essere di Full Electric Show, sono anche concerti che non prevedono una formula ospite e main artist, ma anche l'ospite praticamente va a eseguire un concerto pressoché completo. Può essere un po' più corto, di due tracce magari, ma l'esibizione è completa anche per chi va in apertura. Niente, allora ci vediamo lì, noi adesso con questa trasmissione, dopo questa introduzione così piena di particolari, faremo ascoltare tutti gli artisti ovviamente che si esibiranno in questa 11ª edizione. Vale la pena il viaggio non solo per l'offerta artistica ma anche per il contenuto, perché ricordiamo il motto della rassegna che è Sesto Unplugged, quando il luogo determina la musica. Infatti noi ci teniamo molto a sottolineare anche il valore culturale, turistico e storico del nostro borgo e poi anche con tutte le ricadute che ci sono sul territorio del Friuli. E infatti ed è per questo che noi amiamo il Friuli, amiamo Sest Unplugged e ci torneremo anche quest'anno invitando tutti a partecipare a questo evento che appunto dimostra come anche in una dimensione di provincia si possono appunto attirare grandi nomi e creare comunque degli eventi che contribuiscono ad un'offerta musicale che anche a livello di festival sta diventando sempre più numerosa in Italia e diciamo che Sest Unplugged, come si dice tra virgolette, tiene botta in modo egregio. Ne ringraziamo Daniele Terzieri Hall e ci vediamo a Sesto. Buon lavoro! Grazie a tutti, ciao Claudia! Ciao! Ed era appunto la seconda parte dell'intervista fatta a Daniele che ha anticipato quello che è il cartellone che non avevamo ancora illustrato completamente, ovvero 21 luglio Lumineers, 22 luglio Ray X e Josh T. Pearson, 9 agosto Daughter con Public Service Broadcasting. Ma per chi non conosce questo festival vale la pena insomma dare una scorsa ai nomi delle ultime edizioni, anzi anche di tutte le edizioni, perché appunto c'è stato sempre questo occhio di riguardo per la musica alternativa indie, però anche con un afflato diciamo orchestrale, sinfonico, anche grazie appunto alla presenza dell'ensemble musicale locale. Quindi nella prima edizione c'era già un nome come Michael Nyman, nella seconda Philip Glass, Anthony and the Johnsons, poi Blonde Red Dead, Ludovico Einaudi, Calexico, Patrick Wolf che è tornato diverse volte, Beldry Dromboy, Anna Calvi anche lei due volte, Agnes Obel, Divine Comedy, Scott Matthews, Perfume Genius, Apparat, Local Natives, Villagers e fino ad arrivare alle ultime edizioni a cui abbiamo partecipato più sostanziosamente, Eisturzende, Neubauten, St. Vincent, Belen Sebastian l'anno scorso e ancora Anna Calvi, ma appunto era stato nominato come data successiva nel cartellone quella dei Lumineers del 21 luglio, i Lumineers che hanno fatto un successo mondiale con una canzone che è diventato un tormentone che abbiamo messo in fine di questo mashup, che invece anche le note sono anche più o meno sempre quelle, abbiamo scelto tre pezzi, li abbiamo scelti, sono insomma i tre singoli dell'ultimo album, che poi è il secondo dei Lumineers, ovvero Cleopatra, uscito quest'anno, e sono tre nomi di donna, la prima è Ofelia, poi c'è Cleopatra, poi c'è Angela. Nati come duo nel 2006 nel New Jersey, Ramsey nel New Jersey, anzi nel 2002 come reazione ad una tragedia, ovvero la morte per overdose del fratello di uno dei due membri fondatori, ovvero Jeremiah Freitas, che suona batteria e percussioni, affiancato da Wesley Schultz, voce e chitarra. Poi nel tempo si è aggiunto Jay Van Dyke, che ha lasciato anche male la band con questioni legali, eccetera, di diritti non riconosciuti, eccetera, eccetera. E poi invece adesso un quartetto, anzi un quintetto, perché c'è la vocalist e suonatrice di violoncello Neila Pekarek e due tour musicians, ovvero Seth Ulvang e Byron Isaacs. Diciamo che hanno suonato, si sono trasferiti poi nel 2006 a Denver e hanno sfondato con Ho Hey già nel dicembre 2011, poi è cresciuto questo successo nel 2012 fin dentro il 2013, e l'EP che lo conteneva è stato nominato poi ai Grammys come Best New Artist e Best American Album, e alla fine nel 2013 e 16 arriva il secondo album, Cleopatra. E anche qui è stata, insomma, un po' la nascita di un movimento. Pensiamo a Mumford & Sons, pensiamo a Of Moses and Men, questo ritorno del folk, di queste canzoni dove si battono i piedi, si suona la gran cassa, si fanno i coretti, si suona la fisarmonica e il mandolino. Questa è Angela e finalmente arriva il grandissimo successo dei Lumineers. Quindi, appunto, se ancora non avete capito chi erano loro, adesso questa canzone, you know, la conoscono tutti. Tra l'altro, la curiosità, il nome viene fuori da un errore, nel senso che loro avevano un altro nome quando è nato il gruppo e stavano suonando a Jersey City quando, appunto, sono stati annunciati con il nome The Lumineers, che invece era la band che suonava la settimana dopo o il mese dopo, sempre nello stesso posto, nello stesso slot, nello stesso orario, e quindi sono stati annunciati con nome sbagliato e se lo sono tenuti. Mi viene da chiedere, chissà come l'hanno presa invece gli altri che avevano scelto per prima il nome. Vabbè, come diceva Daniele, dopo il 21 luglio, giovedì, cioè il 22 luglio, venerdì, e quindi penso che appunto gli appassionati del genere folk americana potrebbero approfittare di questa doppietta per farsi un paio di giorni dal Nestri Biel Friul, anche se appunto è una zona più venetofona che veramente friulana. E passiamo a Josh T. Pearson, personaggio molto curioso, molto sfuggente, elusive, nel senso che lui ha iniziato a suonare tanto tanto tempo fa, partendo dal Texas, già nel 96 con una band, Live to Experience, con cui nel 2001 ha pubblicato un album, The Texas Jerusalem Crossroads, che ha avuto molto successo, molti riconoscimenti, e poi si è dato la macchia. È sparito, rimasto in Texas, si faceva dei lavoretti per mantenersi, ma non suonava più, fino a trasferirsi in Europa, prima a Berlino, poi Parigi, dove poi nel 2011 finalmente ha pubblicato un altro disco, ovvero Last of the Country Gentlemen, da cui adesso stiamo ascoltando sempre degli estratti di tre pezzi. Questo è Thou Art Loosed. Hey. un album che poi appunto è tuttora l'unico a suo nome, che si caratterizza per pezzi molto lunghi, anche oltre i 10 minuti, 13 minuti, 8, 9, quindi noi per forza di cose abbiamo fatto degli estratti e questo è un estratto della title track Last of the Country Gentlemen. Questo è il pezzo di chiusura, Driver Out, sarà sicuramente molto suggestivo questo concerto, come diceva Daniele, quando il luogo determina la musica, quindi una cornice assolutamente idonea, questo tipo di musica così intimista e raccolto. Questo era Josh T. Pearson, che verrà affiancato, come diceva Daniele, sono due veri e propri concerti, da Rye X, ovvero giovane surfista, come ha detto, australiano, che si è dato alla musica da molto giovane, però chissà perché, forse perché l'hanno visto come un prodotto commerciale e basta. Ha pubblicato un disco a suo nome che è Rai Cumming, che appunto nelle sue parole era un disco che non lo rappresentava affatto, un po' insomma, quindi abbiurato, disconosciuto, 2010, e poi ha fatto altre cose, nel senso che ha fondato un altro gruppo di acid, ha collaborato, appunto lo stiamo sentendo, con Frank Wiedemann per questo pezzo di Howling, che ha avuto molto successo anche nella forma remixata, per esempio da Am, con cui l'abbiamo conosciuto. Canzone che è stata anche messa in edizione, in versione un po' diversa, un po' più lunga, poi magari con meno cassa di quella che stiamo sentendo, che invece era la versione originale fatta insieme appunto con Frank Wiedemann nell'EP del 2012 ormai. E questa è appunto la versione radiofonica, quindi insomma un po' più corta. Pezzo molto bello, Howling, nella versione più acustica, nella versione più danzereccia, contenuta appunto in questo nuovo album del 2016 che si chiama Dawn, Alba, forse non l'avevamo ancora detto, e che contiene un altro dei pezzi con cui si è fatto conoscere nel corso degli anni, ovvero nel 2013 con un altro EP, si chiamava Berlin, uscito nell'estate appunto del 2013. È piaciuto così tanto anche a Sam Smith, che ne ha fatto una cover, anche questa contenuta nell'album. Non la cover. Home. e solo come noi sappiamo fare, ci abbiamo attaccato a tradimento un altro pezzo tratto da Donna, uno dei pezzi che ci è piaciuto di più nella sua seconda parte, dove diventa un po' più denso, un po' più mosso, ovvero Deliverance. Mi dispiace un po' non esserci, ma quei giorni sarò letteralmente in altri lidi, altre spiagge e altri mari. Per questo appunto sono stata contentissima, perché oltre ogni previsione, perché di solito tutti i concerti si svolgevano all'interno del mese di luglio, quando è venuto fuori, e come ho detto, io ero sicura che Sest Unplugged avrebbe accalappiato Daughter. Io parlo al singolare, parlo al femminile, perché per me Daughter, a torto, sì lo so, è essenzialmente Elena Tonra, ma invece è anche accompagnata da altri due bravissimi musicisti, ovvero Igor Raffaeli e Remy Aguilera. Potevamo non farlo, ma l'abbiamo fatto perché la musica di Daughter è troppo bella. Un mashup ancora tra tre pezzi dell'ultimo album Not to Disappear, uscito all'inizio dell'anno, ovvero Doing the Right Thing, How e To Belong. Perché potevamo non farlo? Perché noi appunto nel gennaio del 2016, all'uscita del disco, abbiamo fatto una nostra bella ponderosa monografia su quest'album, chiaramente parlando anche molto del debutto del 2013, If You Leave. Quindi per chi vuole, per chi ci sarà, rimando comunque all'ascolto, allo studio di Might FM 7x09 dedicate ad Daughter. Però intanto ci riascoltiamo questi estratti di questi tre bellissimi pezzi. Children, then I'll lose my love, then I'll sit in silence, let the picture soak out of televisions, float across the room, whisper into an ear at the earth. Thank you. I don't want to belong, né a te né a nessun altro, non voglio appartenere né a te né a nessun altro, canta Elena Torra. Noi non vediamo l'ora di rivederla, di risalutarla, come abbiamo fatto quando l'abbiamo visto al Radar Festival a Padova qualche anno fa e quando l'abbiamo estorto un simpatico messaggio di saluto per Radio Kairos, che ogni tanto chi ci ascolta può sentire qua e là durante la nostra programmazione. Ripetiamo, martedì 9 agosto Daughter presenteranno in Italia, unica data, Not to Disappear, a cui appunto noi abbiamo dedicato una puntata della nostra trasmissione Mighty FM, ma come diceva Daniele, insieme a Daughter ci saranno anche i Public Service Broadcasting, che sono un duo di base a Londra che noi abbiamo avuto modo di vedere dal vivo qualche anno fa al Covo per l'uscita del loro primo disco. Adesso ne hanno fatto un altro nel 2015, si chiama The Race for Space, uscito nel 2015, ma adesso il 17 giugno è già uscito un album di remix e questo primo pezzo introduttivo è la voce di Kennedy, che appunto illustra i programmi spaziali, ma insieme ai programmi spaziali americani ovviamente e anche prima c'erano i programmi spaziali dell'Unione Sovietica, ed è per questo che quest'altro pezzo che parte adesso è Gagarin. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich. Public Service Broadcasting, un duo di base a Londra formato da J. Wilgus Esq, punto, ovvero un titolo onorifico, non sappiamo quanto reale, ovvero superiore a quello di Gentleman ma inferiore a quello di Sir, e da il suo socio, ovvero Wrigglesworth, anche questo sembrerebbe un nome di fantasia, rispettivamente chitarra, banjo e strumenti a corde, campionatori ed elettronica, mentre il suo socio batteria, pianoforte e sempre strumenti elettronici. Come abbiamo detto, hanno fatto un primo album nel 2013, Inform, Educate, Entertain, mentre i pezzi che stiamo sentendo adesso sono tratti dal nuovo album, ovvero dell'anno scorso, The Race for Space. Every one of us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above. Astronaut to Earth. I can see forests, rivers, cumulus clouds all around. It's wonderful. E i concerti dei Public Service Broadcasting sono anche molto da vedere, perché come i video originali da cui loro traggono gli audio, che erano appunto i video informativi della BBC riguardo la guerra o riguardo la conquista dello spazio, un po' come i nostri cinegiornali dell'Istituto Luce, anche i loro concerti appunto riportano le immagini di questi filmati d'epoca, generalmente pezzi strumentali, come dicevamo, la corsa nello spazio dell'Unione Sovietica, Yuri Gagarin, ma anche e soprattutto la prima donna nello spazio, l'astronauta Valentina Tereshkova, e infatti questo pezzo si chiama Valentina. questo caso il nome Valentina viene cantato da queste voci che sono appunto ospiti di questo pezzo, The Smoke Fairies, ovvero le fatine del fumo. E con questo pezzo Valentina dei Public Service Broadcasting si conclude questa ultima puntata dedicata al festival, alla rassegna Sexto Unplugged, questa ultima puntata di questa settima stagione di Mighty FM, che vi ha tenuto compagnia a modo suo da ottobre del 2015 ad oggi, e come sempre Claudia Mighty Mau qui sulle frequenze di Radio Kairos. Avremmo voluto dedicare un'altra puntata speciale al Festival Moderno, a cui parteciperemo giovedì prossimo a Milano. Abbiamo solo fatto delle compilation che si possono sentire qua e là questi giorni in programmazione, e poi a Live Festival a Lisbona. Personalmente, per una giornatona che vedrà Radiohead, Tame Impala, Hot Chip, Falls, Courtney Barnett, Father John Misty, e poi finalmente le vacanze. Buon ascolto come sempre su Radio Kairos. Un saluto da Claudia Mighty Mau.